GR Europa. Buon pomeriggio da Gigi Donelli. Da qualche giorno è stata pubblicata la relazione europea sulla droga, contiene dei dati esplosivi, sono però esplosivi al ribasso perché vanno contro gli stereotipi profondamente radicati sulle droghe, perché mostrano un declino generalizzato del traffico e del consumo delle due droghe più pericolose, eroina e cocaina. Dichiara questo in una nota Pino Arlacchi, eurodeputato PD, ex direttore dell'ufficio ONU per la lotta alle droghe, uno dei massimi esperti mondiali di criminalità internazionale. Lo abbiamo sentito. I dati colpiscono non tanto me, perché conosco la questione, ma colpisce il silenzio dei media italiani ed europei su un rapporto che dice delle cose assolutamente controcorrente. Le dice controcorrente perché parla di una chiara e netta diminuzione del consumo e del traffico di stupefacenti, soprattutto eroina e cocaina e droghe pesanti, in tutta Europa nel corso dell'anno scorso e nel corso degli anni precedenti. È una questione di diminuzione dei consumatori e anche economica, perché diminuiscono anche in modo ancora più drastico i prezzi. Quindi il mercato illecito delle droghe più importanti oggi ha delle dimensioni che sono molto molto più piccole, quasi un quinto di quelle che erano una quindicina, una ventina d'anni fa. E come dobbiamo leggerli questi dati? Ma perché cosa sta accadendo in Europa? Che l'effetto delle politiche antidroga europee, che si sono sempre basate su due pilastri, la lotta contro il traffico e la tolleranza, l'aiuto e la solidarietà verso i consumatori, che sono le vittime di questo sistema, finalmente mostra degli effetti. Insomma, buone notizie che non fanno notizie, secondo Arlacchi. Cambiamo pagina. Tra la fine di giugno e i primi di luglio iniziano i colloqui per il nuovo accordo commerciale Unione Europea-Stati Uniti. Dopo il via libera di una settimana fa, il tema accende il dibattito. Secondo gli esperti, un accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti potrebbe aumentare il PIL dell'Unione almeno dello 0,5%, ma sulla creazione di quella che potrebbe diventare la più grande zona di commercio libero al mondo ci sono anche molte perplessità, come quella, per esempio, dell'eurodeputata tedesca Ska Keller, membro della Commissione per il Commercio Internazionale, sentita da Maria Luisa Pezzali. Sentiamo. Penso che dobbiamo stare molto attenti nel negoziato con gli Stati Uniti. Noi abbiamo standard tali per cui in passato abbiamo avuto problemi sul tema degli OGM e su tutte quelle tematiche che per noi sono parte integrante della sicurezza dei consumatori. Tematiche alle quali non possiamo rinunciare per un trattato commerciale, ciò è fuori questione. Dobbiamo davvero essere cauti e mantenere alti i nostri standard di sicurezza dei consumatori, perché è qualcosa che riguarda tutti noi europei. Bene, questa era dunque Ska Keller, membro della Commissione per il Commercio Internazionale. Questo e tutti i nostri programmi potete risentirli su radio24.it. Con questo è tutto, un saluto in regia da Filippo Aureggi, da Gigi Donelli al microfono. Appuntamento a domani, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.